Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Eppure si diceva in giro che t'eri incazzato nero, ma un po' di niente, perché la linea era difendere la satira a tutti i costi. Ma chi è satira? Ma che stai a dire? È una somiglianza, hai capito? No, il neo che ci hai qua sotto. Che neo? Non è una somiglianza. Quando facevo un'imitazione tua, c'avevo questo truccatore che diceva sempre: mi raccomando, alla fine ricordiamoci fa il neo. Per carità, il neo piccolissimo, oggi non si accorgerebbe nessuno, ma io sì, perché all'epoca i trucchi si facevano molto precisi. Stasera, sul palco, racconto tutto. Tutta la storia di sto grande intellettuale che ci ha rotti i coglioni a tutti per una vita e oggi cerca di riciclarsi spacciandosi come comico. Io sto babbea, non so manco chi cazzo è. Io non ho mai aperto un libro in vita mia. Se è Dio che sto a costruire una carriera da numero uno. Se qualcuno veramente ascolta a te e poi si pensa che io so sti intellettuale, te me rovini. Io so sputtanato. È peggio da essere così. Dai, Gesù, quanti sordi vuoi, su? Tutta sta scena te me stai. Immagino che molti delle persone che mi ascoltano avranno seguito con attenzione e con piacere Dov'è Mario. È una sitcom che è andata su Sky Atlantic, che racconta la storia, il protagonista è Corrado Guzzanti, l'hai riconosciuto, di un noto intellettuale radical chic italiano che, passato il suo periodo di fulgore, sta vivacchiando più o meno, non avendo più nemici diretti da attaccare, non avendo più, diciamo, il favore dei media, avendo un po' lessato le palle a tutti su quello che diceva, vivacchia un pochino sull'ombra di se stesso, compiaciuto, ma nemmeno tanto. A un certo punto però un incidente d'auto e esce una sua seconda personalità, che è quella di un coattone, del coatto più detestabile, di quello che rappresenta la pancia informe del paese, di quello che quell'intellettuale ha sempre considerato l'esito perverso di certa politica, di certi cambi di vertice, di certi abusi della democrazia, che a un certo punto non sa più chi mette in piazza e via dicendo. Beh, in questa sorta di scissione, in questo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, si gioca tutta quella che è la chiave di lettura della contemporaneità rispetto alla leggerezza di saper sorridere rispetto alla gravità dei problemi che ci affliggono. Ecco, oggi vorrei convocare il mio pubblico proprio su questo tema. Esiste ancora qualcosa per cui vale la pena di sorridere? Abbiamo ancora voglia di sorridere? E ci sono persone che di mestiere e ci fanno sorridere, sono poi quelle che maggiormente ci danno il senso e la profondità della vita, sono quelle che maggiormente ci fanno riflettere. Ma quanto è stato abusato oggi questo libero esercizio del far sorridere, tanto che non abbiamo più modo di sorridere se non attraverso gli stereotipi del sorriso indotto? Sembra un po' complicata, sembra un po' cervellotica, ve la semplifico. Quali dei grandi comici che la televisione italiana ci ha regalato via negli anni rimane ancora e sopravvive, fa veramente sorridere? Non è un'icona smunta, sfatta, putrefatta di qualcosa di passato? Guardate Benigni ad esempio. Benigni è diventato una sorta di apostolo che proclama i Vangeli, non fa più ridere, ma nemmeno un peccatore in punto di morte che non vede l'ora di lambire le gioie della lussuria infernale. Crozza, sì, Crozza faceva ridacchiare, ma ormai di Crozza l'hanno preso tutto, pezzo su pezzo, se lo spezzettano e se lo distribuiscono. Poi con chi se la prende Crozza? Cosa ci fa ridere? L'imitazione di Renzi ci fa ridere, ma cosa c'è da ridere su Renzi? Ormai Renzi in se stesso è talmente ridanciano che sembra già l'effetto comunque di qualcuno che per mestiere rappresenta un politico. Berlusconi, ancora volete ridere su Berlusconi? Ma poveraccio, parce sepulto, lasciamo perdere Berlusconi. Qualcuno ha il coraggio di ridere sui 5 Stelle? No, perché è un movimento politico, oggi sta diventando potente, quindi fa paura a tutti, che si basa sul fatto, su un comico sfatto, ormai che non fa più ridere nessuno, e quindi si butta in politica. A cosa fa ridere voi? Beh, questa mattina ho qualcosa che secondo me ancora rappresenta una speranza rispetto alla leggerezza. Io rido quando mi posso sentire leggero, quando c'è qualcosa che sfugge dall'ideologia, che non mi deve far pensare, mi prende dalla pancia, è come un solletico in zone innominabili. Questo resta secondo me il sorriso del comico. 800 24 00 24, a tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Io mi credevo che metrosexual era quella persona talmente dotata che con quello che ci avanza ci fa pure la cinta e la cravatta. Invece no, metrosexual sono gli uomini che fanno la pilazione del petto, si fanno le sopracciglia, si truccano, però vanno con le donne. Quindi so dei poracci che non so froci, ma un po' gli dispiace, perché ci mancava pochissimo. Boh, gli omosessuali sono orgogliosi, no? C'hanno orgoglio gay. Noi eterosessuali, noi normali, diciamo, non è che siamo orgogliosi, perché riconosciamo che il merito va tutto a chi ha inventato la fregna. Ma sti metrosexual sono orgogliosi. Io non lo so se uno può essere orgoglioso ed essere quasi froci. Quasi froci! Dottore, è tardi, deve tornare a letto. Saluta questi ragazzi. Per farvi capire la forza di questo monologo, che è l'intellettuale organico, radicale, molto di sinistra, politicamente correttissimo, che nell'incidente, che l'incidente poi è una sorta di deus ex machina, è quello che deve naturalmente far ritornare tutto nell'alveo di un pensiero che in qualche maniera ci dia l'idea che Dio esiste, improvvisamente dice quello che ha sempre avuto dentro, quello che ha sempre pensato, immaginato. Per farvi capire, immaginate cosa c'è oggi di più rappresentativo e politicamente corretto. Il presidente Boldrini, immaginatela che ha un incidente d'auto e dice esattamente queste cose. Il mondo si aprirebbe, tutti improvvisamente diremmo: cosa è successo? È cambiato il mondo, non è possibile. Delle frasi così discriminatorie, così omofobiche, così poco osservanti della libertà di espressione dell'umanità, come può dirlo il presidente Boldrini, sempre così attenta, oggi vuole fare i corsi di educazione sentimentale nelle scuole, è impossibile. Questo naturalmente creerebbe una spaccatura nel paese, tutti quelli che da veri profondamente genetici cialtroni, questo l'hanno sempre pensato, dice vedi infame, vedi il politico di sinistra, in realtà pensava questo. E chi invece ha difeso, secondo me ha piena ragione, con pieno senso di osservanza del valore di civiltà della nostra contemporaneità, alcuni valori, ma probabilmente diluendoli e in qualche maniera contaminandoli con quella che è un quotidiano politico, quindi fa perdere valore ed essenza ad ogni concetto, si troverebbe fortemente in crisi. Questo è il senso di Dov'è Mario. Improvvisamente cambia il mondo diventa un'altra cosa, perché un faro che ha rappresentato un certo tipo di pensiero dominante improvvisamente impazzisce e mostra che dentro in realtà abbiamo come una sorta di pensiero atavico questo quattume. Emilio, buongiorno, velocemente, buongiorno, poi passo agli ospiti, buongiorno, che ancora non ho presentato. Sì. Allora, niente, io ho detto prima alla signora che mi ha chiesto, che mi fa morire da ridere sempre i peanuts, sono felice che li abbiano rimessi in Lei deve andarsi a deve andare sul lettino dell'analista, scusa, che cosa c'entra? Fa ridere roba che non faceva sieno ridere nel 1959. Cosa rappresentano più Charlie Brown e Snoopy della contemporaneità? No. Sono i disegni che fanno morire da ridere. Ma parlando di come, per questo è in uno stato regressivo. Non parlo di fumetto, parlo di persone in carne ed ossa che diventano per una sorta di possessione quasi medianica dei personaggi e ci fanno riflettere sulla realtà, quello che sempre ha avuto il comico, ci fa riflettere ridendo questa cosa qua. Lei comunque ancora si diverte a vedere i fumetti che uscirono su Linus nel 59, per cui andava in visibilio, che ne so, Sofri quando era ancora un ragazzino e lavorava a lotta continua, ma oggi non fanno più ridere nessuno. Emilio ha parlato, Francesco. Buongiorno, io intanto complimenti per la trasmissione, io sono un vostro ascoltatore. Non ci importa, vada avanti. Benissimo, allora guardi, niente, io volevo aprire questo dibattito. Il problema è che negli ultimi 30 anni la comicità è completamente cambiata, per una semplice ragione, perché ormai il comico, se così si può chiamare, ed è soltanto tra virgolette a mio avviso da sottolineare, non è più un vero comico. I testi del comico non sono più i suoi, i testi ormai sono scritti da altre persone che si occupano di questo e sono recitati da persone che poi si atteggiano a comici. Un attore mica necessariamente le scrive i suoi testi. No, ma fra il comico e l'attore c'è una grandissima differenza. Io lo dico ma lei è del mestiere per dire questo? No, io non sono del mestiere perché sono un avvocato, faccio tutt'altra cosa, però il comico, oggi siamo tutti comici. Gli avvocati sono divertentissimi a volte, sì. Gli avvocati sono degli ottimi attori. Sono degli ottimi attori, sì, fanno sono più spesso piangere che ridere, però onestamente va Vabbè, no, beh, quelle sono altre, è un'altra questione. Io volevo soltanto. Quindi lei dice il comico è colui che improvvisa, che si lascia prendere dal daimon del palcoscenico e quindi improvvisamente diventa cassa risonante di un pensiero che è nell'aria. Vediamo se è vero. Vi presento un personaggio, ve lo faccio prima sentire nella, diciamo, nella fiction di Dove Mario e poi l'avremo qui in carne ed ossa. No, giù le mani. Allora, pattichiare amicizia lunga. La sincerità è la prima cosa, non me devi raccontare le stronzate, capito? Meglio che so tutto. Secondo, fisicamente non mi piaci, quindi non mi toccare, se in caso te bacio io, d'accordo? Queste sono le regole. Se te sta bene, bene, se no è proprio inutile che se mettiamo assieme. Che progetto ci hai per noi due? Ci hai un progetto per noi oppure così, stiamo a perdere tempo? Ma non lo so perché non è che ancora c'ho... Non fa il vago. No, ma poi veramente sei te che mai... Che ti ho baciato? E beh? Me lo rinfacci pure. E meno male che l'ho fatto io, sennò te penanna la portavi avanti sta storia. E non sarebbe stato corretto anche nei miei confronti. Questa è una educazione sentimentale. Una donna che si mette con un uomo, detta subito le regole, fa subito un contratto preventivo di come dovrà svolgersi il rapporto. Lui è ancora l'intellettuale di sinistra nella sua fase coatta e quindi tutto sommato in maniera molto basilare e rozza si lascia gestire in questo rapporto. Lei è Cinzia, secondo me è un passo avanti rispetto alla rappresentazione stereotipa della coattaggine romana. Cinzia sta a Sabrina Ferilli come una cozza sta a un'orchidea, per farvi capire, e rispetto al passato. Cinzia, abbiamo qui in studio Emanuela Fanelli. Emanuela Fanelli, buongiorno. Buongiorno. Tu sei un'attrice di teatro. Sì. Hai sempre recitato teatro. Quindi... Sempre a teatro, poi il teatro quello... Vero. I teatrini off dei castelli romani e di Roma sono molto amata, i castelli, proprio quel teatro che monti praticabili e non vieni pagato. Quelli così. Che ancora vanno a teatro, però questo è di questo. Sì, sì, sono molto fiera. Tu sei diventata Cinzia, sei diventata un personaggio. Descrivila innanzitutto. Cinzia, ho detto male, è una rilettura contemporanea della quattaggine, una quattaggine che in qualche maniera vuole rappresentarsi con contenuti alti, perché frequenta un mondo anche alto, e quindi si inventa questo linguaggio che è un romanesco rivisitato. Per rispondere al nostro ascoltatore, i testi sono di Corrado Guzzanti, quindi non credo che sia vero che il comico deve per forza lavorare sui suoi testi. No, Cinzia faceva ridere anche se i testi non erano i suoi, no? Quindi erano scritti benissimo. È un personaggio meraviglioso, infatti credo sia riduttivo pensarla come la coatta, perché proprio né da parte mia. Ma è un'evoluzione. È un'evoluzione da molte. L'orchidea è l'evoluzione della cozza. Certo, vabbè, io non volevo stare a risottolineare questa polemica. Un saluto a Sabrina Ferilli, tra l'altro, da parte mia. E, però comunque sia io che Edoardo Gabriellini che Corrado non volevamo stereotiparla troppo e creare quindi un personaggio che fosse vero, nonostante quel linguaggio meraviglioso ma molto particolare che aveva inventato Corrado per lei. Quindi lo sforzo è stato soprattutto quello di renderlo molto naturale. Ecco, rispetto al tema che ci poniamo questa mattina, su cui gli ascoltatori ci stanno cercando di far capire, te sei una giovane attrice, sei approdata alla televisione, improvvisa, hai fatto un provino, ancora non sei così conosciuta, ancora non c'è stata la fila per prenderti, ma il mondo si accorgerà che esisti sicuramente attraverso quello che è il vettore più forte, più potente di celebrità e di soddisfazione di carriera di un attore, che è passare in televisione. È inutile, non ci prendiamo in giro, coloro che rimangono ancora arenati al valore del palcoscenico, sul palcoscenico poi rimangono stecchiti. Dei grandi del palcoscenico, quando muoiono, possiamo raccontare quello che vogliamo, la gente se li ricorda che sono passati in televisione, hanno fatto magari un passaggio a Studio 1 e ci ricordiamo magari gli Albertazzi, ce lo ricordiamo perché ha fatto il Dottor Jekyll in televisione, non credo che il monologo di Adriano se lo sono andati a vedere poi in tanti. Ecco, qual è secondo te la formula che manca oggi per cui questo senso di leggerezza dovrebbe dare un comico, è così difficile individuarlo? Ma io credo che innanzitutto manchi una fiducia nel pubblico, nel senso che Dove Mario a me ha fatto molto ridere ancora prima di farlo, leggendolo, perché è scritto in modo tale che il pubblico si senta anche intelligente, ed è una cosa che sembra magari banale, però non lo è, anche perché la risata, io credo, come i grandi dolori, anche le grandi gioie, le grandi risate nascano dalla sorpresa, cioè da qualcosa che non ti aspetti, no? Ti causa un sentimento forte, positivo o negativo. E adesso la cosa che manca, secondo me, delle idee sorprendenti, non ci si sorprende più. Per 20 anni sono andati avanti prendendo in giro Berlusconi, che sembrava fatto apposta per essere preso in giro. Bastava adesso guardare. Della nuova generazione politica, anche tutta la satira possibile sul post-berlusconismo si è esaurita in maniera molto veloce. Si è scherzato sul Papa, si è scherzato su tutto, ma non c'è più niente che ti strappi veramente l'idea che vedi qualcosa di nuovo. Sì, forse perché la realtà purtroppo già si presta troppo alla comicità, è talmente già comica direttamente che poi farne un lavoro di parodia è anche superfluo spesso, soprattutto in questo momento in Italia, credo. 800 24 00 24, scrive un ascoltatore: a me fa ridere Nicoletti, che con il suo parlare untuoso fa finta di essere intelligente. Perfettamente ragione, accolto. Marco Marzocca, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Marco Marzocca con Mario non c'entra nulla, no. Però sta qui perché anche lui fa parte di una comicità conquistata sul campo. Tu sei nato come farmacista. Sì, infatti. Io mi ricordo di te, le prime volte ti vedi in televisione. Sono un artigiano, c'è una nota pubblicità, dice artigiani della... sono un artigiano della comicità. Del farmacista, qual è l'artigianato del farmacista? No, io facevo il farmacista perché mi sono laureato in farmacia, venivamo da una famiglia di farmacisti e quindi chiaramente dovevo seguire la dinastia. Tu come hai cominciato? Come ti ha conosciuto il pubblico? Ho cominciato facendo Michelino con Corrado Guzzanti, appunto. Ecco perché. Ecco, sei qua perché diciamo sei l'appendice parlante di Guzzanti, che no, ci no, dicono per... che sia molto raffreddato, sennò partecipava. No, lo salutiamo, credo che ci stia ascoltando. Sì, oggi c'ha l'influenza già da diversi giorni, poverino. Tra l'altro è il mio migliore amico, quindi per carità sono di parte, quindi già lo dico. C'è un vantaggio che uno che si sottrae. Corrado si sottrae, questa è la cosa fantastica per cui sopravvive. Beh, no, sta male veramente. No, ma si sottrae generalmente allo star system, non è uno che va in giro poi dopo a raccontarti. No, non è uno che ama fare il divo in giro, questo no, assolutamente, per carattere, ma anch'io un pochino, perché non è che noi ci frequentiamo, siamo pochi amici e non ci abbiamo un grande giro di quelli che frequentano il mondo dello spettacolo. Allora vorrei tu enunciassi, prima di iniziare a entrare nel tema della comicità, quella che è una teoria che da te ho ereditato. Sì. Che dovrebbe far riflettere molti autori e dovrebbe riflettere anche molti editori. Già so quello dove stai andando a parare. È la teoria degli Ovetti Kinder. Gli Ovetti, in generale, a prescindere. In generale, gli Ovetti Kinder o no. Marco Marzocca ha messo a punto una teoria, che è la teoria degli Ovetti. La teoria degli Ovetti, ve la faremo sapere fra un istante, vediamo un po' di suspense, che dovrebbe dipanare tutto il dilemma rispetto, non ci sono più autori, non c'è più gente che scrive, il comico non scrive i suoi testi, quindi non è comico, sì, il comico non fa più ridere. Lo scopo qual è? Quello di avere audience, di avere, no? successo. E quindi... Qual è la chiave del successo? Lo saprete fra un istante, dopo l'informazione della borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Melog, Cronache Meridiane. E tu come puoi essere conciato in questa maniera, tutto rapato, come un pugile pazzo? E come puoi la sera, in quel teatrino, in quel postaccio popolare? Melog, Cronache Meridiane. Capito questa che si pensa, eh? Si pensa che io nulla trovo. Ma questa chi? Si pensa che nulla trovo, questa grandissima mignotta. Tu non lo sai che io te sventro. Tu non lo sai che io ti apro come una chiusura lampo. Hai capito, troia? Capito questa che si pensa? Si pensa che mi conosce. Si pensa che io nulla sventro. Ma che stai a dire? Ma non c'è nessuno. Manca in casa mia questa. Manca un paio. Non mi toccare, primo avvertimento. Con come i sorci, guarda, come i sorci quale siete. Ma non ci sta, ma lo vuoi capire che non ci sta eventualmente la puttana, non c'è nessuno. Ma ce la vogliamo ragionare con calma questa situazione, per piacere. E ti dico pure come si chiama, pensa un po'. Maria o Marietta, dici come lo sai perché parli nel sonno, sì? De giorno mi racconti tante di quelle cazzate, ma de notte chiami a lei. A Marie, a Marie. E se Marietta non c'è sta adesso, vedrai che torna. E lo sai che famo noi, eh? L'aspettiamo insieme. Ma lo vuoi capire? Questa non lo so. Di chi è sta casa? Non è casa mia, non lo so. In realtà è la casa di Mario nella sua versione ufficiale, di scrittore, di professore che dava tesi su Spinoza e che aveva una moglie, naturalmente. Solo nella sua fase 4, nottetempo, si sa, i giochi del profondo, dice il nome della moglie. E Cinzia, la nuova fidanzata, va a casa e la vede come una rivale. La vede come una rivale. Allora, Emanuela Fanelli. L'attore prima che diceva il vario personaggio che è gioco facile usare il dialetto, qui tu il dialetto lo usi anche se non è un dialetto, è diciamo una cadenza, sì. Qual è l'uso invece che fai in questo caso? Ma in realtà io non trovo così vergognoso usare il dialetto per fare... Lo dicono è gioco facile. Ma... Gioco facile, nel senso, uno può parlare, cioè potrei parlare anche in romano un quarto d'ora e dire cose che non fanno ridere per niente. Come non fanno è... tanti comici che parlano in romano. Esatto, anche perché poi il romano in particolare è un dialetto con cui bisogna stare molto attenti, perché è un attimo che si diventa troppo forti, troppo volgari, quindi io non la vedo una cosa molto... Non sono d'accordo, ecco, con questo gioco facile del dialetto. Poi Cinzia parla così e non è neanche romano, è romano ma non è, ecco, proprio... È un ibrido. È un ibrido. Ecco, qual è il lavoro di scrittura per arrivare al risultato del genere? Questo mi interessa, perché se no sembra che nasce così, metti una davanti che è un'attrice, dice, ma fai un po' la quatta, mezza quatta, che provo a parlare difficile, mettici qualche parola strana. Io ho visto in anteprima, ho avuto questo privilegio di vedere in anteprima, perché sono molto amico di Corrado, come abbiamo già detto, mi ha mandato, stavo negli Stati Uniti, poi ha mandato il link per vedere in anteprima il lavoro, l'ho visto in premontato e devo dire che la prima cosa, a parte le risate, ci siamo sganasciati, ho visto io con mia moglie, ci siamo sganasciati proprio dalle risate, ma la cosa che salta all'occhio è la ricerca del linguaggio in tutti i sensi, cioè qualunque dialogo scritto in questo lavoro c'è una ricerca del linguaggio che è incredibile, è maniacale. E devo dire la stessa cosa l'avevo vista anche in Fascisti su Marte, perché Corrado per fare i testi c'era questa voce fuori campo che parlava, una filologia di... assoluta, sì, lui ci ha studiato veramente quasi 2 anni, si è visto tutti i cinegiornali dell'epoca, cioè lui da questo punto di vista qua è un perfezionista assoluto, e quindi credo che la parte più bella in assoluto, a parte le risate, è proprio il linguaggio. C'è questo ibrido di romanesco che però vuole quasi sdoganarsi a italiano, no? Cioè, che dicevi tu, la cosa ci hai le chiavi, che vuol dire voglio parlare italiano ma in realtà non lo so parlare. Io sto notando adesso, ci sono 2 persone al telefono, che ci parlaste voi con le persone al telefono, così vediamo anche un po' l'effetto che fa nella valutazione di ciò che noi vogliamo per ridere, per sorridere, per sentirsi leggeri. C'è un ricadere in stereotipi, c'è un ricadere in qualcosa che comunque ormai fa parte di un passato. Alberto, tu parli con Emanuela Fanelli, rivolgiti a lei. Ciao Alberto. Sì, sono qui Alberto. Ciao. Ciao. Dici tutto. Niente, ho nostalgia di un uomo di mezza età, Marcello Marchesi, di come mischiava, di come coniugava, sposava la poesia con la battuta. Non di era Cinzia. Manco nata, non era manco Scusami, nata. Scusami Alberto, non era manco nata. Ho 29 anni, perdonami. Sì, ma non era manco nata. Noi stiamo rievocando zombie, cadaveri, qualcosa del passato, pensando che possano oggi dare la stessa leggerezza. Probabilmente Marcello Marchesi, il signore di mezza età, dava nel 1957 quando andava in televisione bianca e nera. Non è questa. Un'altra chance ce l'ha Nicola, a cui risponde Marco Marzocca. Eccomi Nicola. Sì, pronto? Pronto? Dimmi. Un attimo, eh. Sì. Già questo fa ridere. Già Nicola ci piace. Ciao. Ciao Marco, sono un tuo ammiratore comunque. Saluto tutti quanti. Grazie. Manco sa chi e sei. Volevo scordare Bud Spencer che ci ha fatto ridere. Sì, tanto. Vabbè, da stamattina che lo ricordano, va bene. Okay, sì, no, beh, certo. Sì. Sarà esposto in Campidoglio, allora, va grandi onori. Beato lui. Secondo me la comicità nasce spontanea, involontaria spesso. Anche sì. Io faccio ridere, me lo dice sempre mia moglie, finisce, lo fai ridere, quindi... Ma si sente, posso dire? Un po' tutti, diciamo un po' tutti. Io... Un po' tutti, però ecco, io, cioè, scusa, quando ho chiamato ho voluto ricordare questa cosa qua, che secondo me uno dei più grandi comici, pur non essendo né un attore né un comico, è Luca Giurato. Luca Giurato è... Effettivamente, cioè... sì, ha delle doti, devo dire. Adesso mi ricordo, c'aveva delle doti lui. Sì, ma faceva ridere perché era vice direttore del TG1. E dice, un vice direttore del TG1 che fa il cretino in questa maniera fa ridere. Se fosse stato un comico non avrebbe fatto ridere nessuno. Anche qui c'è l'elemento sorpresa però, perché tu non ti aspetti. Quindi torniamo al discorso degli ovetti, lo vedi? Quindi sì, quindi il concetto che viene fuori da tutti questi discorsi che abbiamo fatto è che la sorpresa, quando ti sorprende nel bene o nel male, crea un'emozione. Quando vuoi creare l'emozione dell'ilarità, vuoi far ridere, la sorpresa deve essere evidente. Ma non sarà che noi siamo così circondati ormai di comici involontari, che sono parte del gran teatrone della politica, del giornalismo, mi ci metto pure io, che vogliamo essere seri ma facciamo ridere, del mondo dello spettacolo, delle opinioni, che in realtà chi come voi studia e vuol fare il comico trova una concorrenza smisurata e non riesce più a dare quello che dovrebbe dare. Oggi sì, devo dire, la concorrenza, ditelo entrare, me l'ha fatto domandare tutti, lo rispondi sì. Te poi risponde Cinzia, dai. No, la concorrenza che secondo me c'è sempre stata, soltanto che adesso c'è internet che porta. Una volta c'erano le audizioni, c'era la rivista, i comici dove andavano alla rivista, insomma, prima della televisione, quindi... Ricorda che Tognazzi fu cacciato dalla Rai perché prese in giro un ministro che gli tolse il Presidente della Repubblica, gli tolse la sedia sotto e cadde, rifece questo sketch. Oggi potete fare quello che volete. Tu, Emanuela, che dici? Io penso che in realtà la grande concorrenza da una parte sia anche un valore aggiunto, un po' quando c'è qualcuno che veramente ha qualcosa da dire. Ti non stimola? Non solo ti stimola, ma posso dire una cosa sì, un po' grave, tanto qua sì. Tu hai prima detto che la sì. Merkel farà la lap dance, questa immagine la porterò sempre. È che in tanta concorrenza c'è anche molta mediocrità e quindi forse più di prima basta poco per spiccare, perché prima invece c'era molto più una grande elite. Molto giusto quello che adesso uno con un pugnale nelle spalle entra in un cimitero, comunque è il più vivo di tutti. Esatto. Alla prossima, grazie.